Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Continua il potenziamento della sanità privata e accreditata in regione, inaugurato a Pordenone il blocco operatorio della clinica San Giorgio, ampliato e ammodernato. Calano le nascite e la popolazione, la regione non riesce ad attrarre nuovi abitanti, nel contempo però aumenta il consumo di suolo. Lo studio di Confcooperative. Stalker arrestato in flagranza a Trieste dalla polizia locale, da mesi perseguitava una donna che non lo conosceva e che aveva più volte sporto denuncia contro ignoti. Facoltosa famiglia friulana affitta un garage a Buttrio per usarlo come cabina armadio, ma i ladri svaligiano il locale, rubati scarpe e abiti per 200.000 euro. Le pari opportunità sono un concetto che non piace alle aziende, così la consigliera di parità della regione, che oggi ha fatto il punto su quelle con più di 50 dipendenti. Oggi è la giornata nazionale contro lo spreco alimentare. La nostra intervista all'esperto dell'Università di Bologna, Andrea Segre. Dopo la sconfitta in casa contro la Propatria ieri sera, il comunicato della Triestina che esonera Tesser. Dopo la debacle di ieri che le ha viste tutte sconfitte, le squadre regionali di basket si apprestano ad affrontare la fase a orologio del campionato di Serie A2 che prenderà il via l'11 febbraio. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Lara Zani. Continua dunque in regione il potenziamento della sanità privata e accreditata che tante polemiche politiche sta sollevando in questi tempi. Questa mattina al Policlinico San Giorgio di Pordenone è stato inaugurato il polo operatorio dopo le opere di ampliamento e ammodernamento. Era presente anche l'assessore regionale alla sanità Riccardi. Il Policlinico San Giorgio ha praticamente pronte 2 nuove sale operatorie, altre 3 saranno invece realizzate a breve per soprattutto realizzare interventi di ortopedia, in particolare protesi. Il nostro obiettivo, ha detto l'assessore Riccardo Riccardi, è presente qui a questo evento, a questa sorta di inaugurazione. Il nostro obiettivo, ha detto, è quello di tamponare la fuga dei pazienti delle Friuli Venezia Giulia verso il Veneto, soprattutto attraverso l'utilizzo del privato accreditato, cioè sostanzialmente l'utilizzo di strutture che per conto del pubblico e ovviamente senza spese per il cittadino eseguono determinati interventi. C'è stato già un ampliamento di questa area, per esempio il Policlinico San Giorgio è passato da 900 a 1200 protesi realizzate in un anno recentemente e potrebbe ancora crescere. Lo chiediamo al direttore generale proprio del Policlinico San Giorgio di Pordenone, il dottor Sista, lo chiediamo appunto qual è il vostro margine di crescita. Il nostro margine di crescita è legato non tanto alla struttura quanto al finanziamento regionale, per cui noi facciamo ciò che ovviamente la regione ci chiede e ci dice di fare. Attualmente noi da alcuni anni siamo posizionati sui 1200 interventi di protesi di prevalentemente anche ginocchio. Noi potremmo, se la regione ce lo chiedesse per abbattere la lista d'attesa e soprattutto il problema della fuga regionale verso il Veneto, noi potremmo tranquillamente da un anno all'altro arrivare a 1500 protesi annue. In breve, cos'è che la regione vi chiede soprattutto? La regione ci chiede soprattutto interventi di ortopedia, quindi protesi e interventi artroscopici, e poi quello che ci chiede inoltre è attività chirurgia oculistica, perché sono quelli che sono frutto di fuga regionale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Calano le nascite e la popolazione diminuisce, anche perché facciamo fatica ad attrarre nuovi residenti. Eppure in presenza di un calo demografico dell'1,5%, il consumo di suolo aumenta dell'1%. Questo e altri dati sulla regione nello studio di Confcooperative presentato oggi a Udine. Sostenibilità come modello di sviluppo per tornare a essere la locomotiva d'Europa. Nel 2000 il reddito pro capite del Friuli Venezia Giulia era del 32%, più elevato della media delle regioni europee. Nel 2021 lo era appena del 3%. Lo scoglio principale da superare, quello più grosso, è quello demografico, come emerge da una ricerca promossa da Confcooperative. Il modello a cui puntare è per esempio quello della provincia di Parma, è stato sottolineato, dove l'attrattività viaggia a un ritmo doppio rispetto al calo demografico. demografico. Il Friuli Venezia Giulia è riuscito a essere più attrattivo rispetto al Veneto a livello migratorio, ma ancora non basta, perché in regione e anche in Veneto nel 2022 la popolazione è continuata a calare e serve altro. Secondo Giampiero Della Zuanna, professore di demografia a Padova, serve un'immigrazione dall'estero con integrazione rapida, perché questo porta rapidamente a far sì che anche gli immigrati diventino famiglie e si riempiano le squadre sportive e le piazze. Dalla presentazione del rapporto Mutamenti in regione a Udine emerge anche la necessità di politiche economiche e industriali nuove, sfruttando la grande dotazione di competenze diversificate sul tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, anche andando oltre la mera logica concorrenziale. Daniele Marini, professore di sociologia a Padova, indica che serve collaborazione, cooperazione, perché, lo dicono anche gli studi delle società internazionali, oggi è la cooperazione che rende le imprese e il sistema economico più flessibile o, come si diceva ai tempi del Covid, più resiliente. Più semplice per le aziende la sostenibilità di primo livello, il mero efficientamento energetico. Per quella di secondo livello, indica Gianluca Toschi, professore di economia internazionale a Padova, le politiche pubbliche dovrebbero concentrarsi sul gradino più complicato, dove le imprese devono fare innovazione ambientale, che è sempre un'attività rischiosa. Allora forse è quello l'elemento dove il pubblico dovrebbe aiutare anche a livello finanziario. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. La polizia locale di Trieste ha arrestato in flagranza uno stalker che da tempo pedinava una donna oltre ad avere tentato di aggredirla. L'uomo era sempre riuscito a fuggire in tempo e la vittima non conosceva la sua identità, tanto che aveva sempre dovuto fare denuncia contro ignoti. Lunedì scorso però aveva chiesto aiuto a una pattuglia che è riuscita a intercettarlo di lì a poco. La donna ha raccontato alla polizia locale che l'uomo la perseguitava da molti mesi e questo l'aveva costretta, temendo per la propria incolumità e per quella della sua famiglia, a cambiare casa e lavoro, accorgimenti purtroppo inutili perché l'uomo era riuscito a rintracciarla nuovamente. Un garage di Butrio affittato da una facoltosa famiglia di friulani per essere utilizzato come una sorta di cabina armadio è stato derubato dai ladri. All'interno del locale, che pare si trovi nei pressi del posto di lavoro del capofamiglia, abiti e scarpe firmati per un valore, stando ai proprietari, di 200.000 euro non coperti da assicurazione. Furto per certi versi anomalo, quello messo a segno nello scorso fine settimana in un garage usato come cabina armadio in via Nazionale a Butrio. Nel locale di una famiglia udinese erano conservati capi d'abbigliamento, scarpe, borse, oggettistica ed accessori di marche prestigiosi. I malviventi, per accedere al deposito, hanno utilizzato un piede di porco con il quale hanno scardinato porte e la serranda basculante del garage, per poi arraffare il contenuto del locale e trasportarlo in dei sacchi neri. Sul posto lo studio legale Tutino, che segue la famiglia, ha chiesto al 112 i rilievi scientifici dei carabinieri intervenuti con la stazione di Percoto, anche in considerazione del fatto che sono state ritrovate tracce ritenute interessanti a fini investigativi, previsto anche un ulteriore sopralluogo dei carabinieri della sezione rilievi. Il danno è stato quantificato in oltre 200.000 euro, secondo quanto riferito in una nota dai legali dello studio, e la famiglia non è assicurata. La denuncia del furto è stata depositata negli uffici della Procura della Repubblica di Udine. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La polizia di frontiera ha fermato all'ingresso dello Stato, al valico di Rabuiese, un'autovettura proveniente dalla Bulgaria con a bordo 3 cittadini di nazionalità bulgara. Nascoste all'interno dell'auto sono state trovate 42 stecche di sigarette che stavano per essere importate illegalmente. Le sigarette sono state sequestrate, il conducente dell'auto denunciato. I carabinieri della stazione di Miramare sono riusciti a individuare il responsabile del furto in un distributore automatico di bibite e alimenti posto all'ingresso del parco del castello di Miramare. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nonostante il tentativo del ladro di manometterne alcune. Il ladro è un cittadino rumeno 54enne, senza fissa dimora, con precedenti specifici. L'uomo è stato denunciato. 11 anni fa Alex Bertoli, uno chef originario di Capriva del Friuli, veniva massacrato a colpi di bastone e poi bruciato in Messico, dove con la moglie Pamela Corradini gestiva una pizzeria. Ora è stata uccisa anche la donna insieme all'attuale compagno. L'agguato, ritenuto un regolamento di conti tra gruppi di narcos, è avvenuto nella cittadina di Ocotlán de Morelos, nel negozio gestito dalla coppia. E ora uno sguardo al tempo, nuvolosità variabile su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste e Gorizia 10 gradi e 5 decimi, a Udine 11 gradi e 5 decimi, a Pordenone 9 gradi, a Piancavallo 12 gradi, Sappada 8 gradi, Tarvisio e Tolmezzo 6 gradi e mezzo, Forni di Sopra 4 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 9 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 9 gradi, a Lignano 12 gradi, a Grado 11 gradi. Le previsioni dell'ARPA: oggi sui monti avremo bel tempo, specie sulle Alpi, con zero termico a 3.000 metri, su pianura, costa e fascia orientale fino alle prealpi Giulie, cielo variabile o localmente nuvoloso con foschie e possibili nebbie. La regione fa il punto sulla parità di genere con la consigliera regionale di parità Anna Limpido, alla luce dei dati provenienti dalle aziende regionali con oltre 50 dipendenti. Su quasi 150.000 lavoratori, il 39,8% è composto da donne. È uno degli indicatori fotografati nel rapporto sulla situazione del personale delle aziende del Friuli Venezia Giulia, con oltre 50 dipendenti, presentato a Trieste dalla consigliera regionale di parità Anna Limpido. Si tratta di un quadro in chiaroscuro in cui il Friuli Venezia Giulia svetta nella classifica nazionale, a fronte però di un basso risultato dell'Italia in Europa. Per cui, se il tasso di occupazione femminile in regione supera il 60%, la media nazionale del 55 e quella europea si avvicina al 70. Una situazione articolata. Se si analizza la qualità del lavoro, si vede che anche in regione è forte la cosiddetta segregazione settoriale, per cui la presenza femminile è ampia in alcune aree, nella sanità soprattutto, dove arriva al 79,6%, ma anche nell'istruzione, nella cultura, nel terziario avanzato, e debole nelle altre. È diverso anche l'inquadramento: su quasi 2.500 dirigenti in regione, le donne sono poco più di 600, con un'incidenza del 24%, mentre per quanto riguarda gli impiegati costituiscono il 42%. Prevalgono i contratti in part-time: su oltre 30.000, 25.000 sono di donne. Questo ha un impatto forte sulla carriera. Le donne seguono meno percorsi formativi, hanno meno tempo per sviluppare competenze specifiche e premianti e hanno uno stipendio più basso. Se si guarda al divario di genere nella paga, che è più alto dove gli stipendi sono più alti, si nota che per i dirigenti la variazione tra uomini e donne del 46,6%. La parità di genere non piace, le sue istanze danno fastidio, è un tema verso il quale c'è antipatia, a partire dalle famigerate quote rosa. A dirlo è la stessa consigliera regionale di parità Anna Limpido. Quello che deve cambiare è il modo in cui viene comunicata e compresa. La disparità di genere è un comportamento atavico, diffuso, è la somma di tutte le nostre scelte, continua, e per cambiare le cose dobbiamo tutti contribuire. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Trasferimenti in città sostanzialmente invariati, partenze in calo, diminuzione dei decessi, nuovi nati senza grandi variazioni con un maggiore numero di fiocchi azzurri rispetto a quelli rosa, stranieri leggermente aumentati con la presenza di ucraini superiore a quella dei cinesi. Queste alcune delle indicazioni che emergono dai dati demografici di Gorizia relativi al 2023, fermo restando che al momento sono disponibili solo quelli dell'archivio anagrafe del comune. In un contesto nazionale in cui si assiste ad un continuo e preoccupante calo demografico, ancora più evidente storicamente nella Venezia Giulia, siamo riusciti, dice il sindaco Ziberna, a rallentare in modo importante la perdita dei residenti. Oggi è la giornata nazionale contro lo spreco alimentare. Questa mattina, Buongiorno Regione, abbiamo cercato di capire come migliorare i nostri acquisti per evitare di buttare il cibo. I beni di consumo che finiscono di più nella pattumiera sono soprattutto gli alimenti freschi, frutta, verdura, pane, formaggi e anche carne. Le ragioni sono intuibili: acquisti eccessivi al supermercato, scarso ordine nel frigorifero e così via. Secondo l'osservatorio Waste Watcher, ciascuno di noi spreca ogni settimana mezzo chilo di cibo, 80 grammi al giorno. È tanto? Andrea Segre, agronomo ed economista italiano. Sembra niente, 80 grammi al giorno, 4-5 fette di prosciutto crudo, ecco, solo per dare un riferimento. Poi però, se sommiamo le settimane, il numero di consumatori l'anno, viene fuori che sono in valore oltre 7 miliardi di euro, solo lo spreco domestico. Lo spreco si può ridurre a monte, semplicemente acquistando meno e meglio. Tanti anni, diciamo, di ricerche, di applicazioni, non ho ancora trovato nessuno che dica butto via il cibo apposta. Quindi ne compri troppo, non sai leggere bene le scadenze dei prodotti, non sai che il frigorifero ha delle temperature diverse. Proprio per questo educazione alimentare abbiamo lanciato esattamente un anno fa un'applicazione che si chiama Sprecometro, che ti aiuta proprio a capire dove sbagli. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Improvviso esonero ieri sera per l'allenatore della Triestina Attilio Tesser, reduce della sconfitta contro la Pro Patria. Un esonero che spiazza un comunicato che lascia perplessi. Attilio Tesser da ieri sera non è più l'allenatore della Triestina. Decisiva la sconfitta in casa con la Pro Patria e il calo di risultati. 7 punti nelle ultime 6 gare, 3 sconfitte a cominciare da quella con il Padova. Alla Bardati comunque saldamente al terzo posto a quota 46. L'esonero potrebbe essere allora dovuto alle scelte di mercato societarie non condivise dal tecnico di Montebelluna. Il legame di Tesser con la città e la tifoseria però è forte. Per questo le dichiarazioni del presidente Ben Rosenzweig e del general manager Alex Menta nel comunicato suscitano perplessità. Dopo aver acquisito un club in totale disordine, era chiaro che Attilio fosse la persona più adatta a fornire stabilità e organizzazione a una rosa che stava subendo un significativo turnover. In questo senso, Attilio ha avuto più successo di quanto potessimo immaginare. Riteniamo di essere in anticipo rispetto alla tabella di marcia ed è arrivato il momento di passare alla fase successiva del nostro progetto. Poi i ringraziamenti. Così è scritto, riferendosi ad un tecnico che ha conquistato con Novara, Cremonese, Pordenone e Modena storiche promozioni. I nomi del possibile sostituto, quelli di Roberto Bordin alla Triestina nel 2016 e quello di Alfredo Aglietti, ultima esperienza a Brescia. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo la debacle di ieri, che le ha viste tutte sconfitte, le squadre regionali di basket si apprestano ad affrontare la fase a orologio del campionato di Serie A2, che prenderà il via l'11 febbraio. Per sorteggio, tutte le squadre del girone rosso inizieranno con un turno casalingo. Per Udine, dunque, debutto al Carnera contro Milano, mentre la Pallacanestro Trieste ospiterà Roma e al Palagesteco arriverà Trapani. Ultima giornata il 21 aprile, con Udine ospite a Cantù, Trieste a Rieti e Cividale a Vigevano. Il calendario è ancora provvisorio, quello ufficiale dovrebbe essere reso noto domani, una volta risolte eventuali problematiche di utilizzo degli impianti nelle date dei turni casalinghi e dopo l'omologazione dei risultati delle gare dell'ultimo turno da parte del giudice sportivo. Sentiamo il commento del presidente di Cividale, Davide Micalic, alla sconfitta contro Cento e le aspettative per la fase a orologio. Credo sia stata una partita bellissima, che ha appassionato tutta la gente che c'era, che ha riempito il nostro palazzo. C'è una partita veramente stupenda, all'ultimo respiro. Loro se la sono andata a prendere, però, sti bravi, perché quando li abbiamo superati, più uno, credo prima Mitchell e poi Arce, ha fatto canestri pazzeschi, difficilissimi. Sono stati bravi, sono andati a prendersela veramente, perché potevano anche soccombere in quel momento. Però per noi brucia perché era una partita importante, era uno scontro diretto, adesso inizia l'orologio, però in ottica playoff, se guardiamo un pochino più in là, questa può essere una sconfitta che fa la differenza. Quindi ci lecchiamo le ferite, ci dispiace tantissimo. Forse il vero rammarico è nel secondo quarto. Nel primo quarto siamo stati spettacolari. Il basket è beffardo. È beffardo, bisogna saperlo accettare nel bene e nel male e rimboccarci subito le maniche, perché inizia l'orologio, abbiamo 10 partite dietro, di nuovo chiusi. Spingono e Rimini davanti ha vinto. Quindi la classifica si sta un po' delineando, per noi era uno scontro diretto, peccato però insomma lo sapevamo che sarebbe stato un campionato da combattere e combatteremo fino alla fine. Un'ultima notizia prima di chiudere, il TAR ha accolto le ragioni del comune di Pordenone dichiarando inammissibile, quindi respingendo il ricorso del circolo Grizzo di Legambiente sulla questione dei 47 tigli storici dell'ex fiera che dunque verranno abbattuti per dare vita al progetto di recupero del Polo Young. L'udienza si era tenuta lo scorso 24 gennaio e i giudici si erano riservati una decisione fino alla sentenza pubblicata oggi. Il ricorso, sottoscritto anche da un gruppo di cittadini appartenenti al Comitato Tiglio Verde, puntava al recepimento di normative europee e all'esclusione della memoria del comune asseritamente pubblicata in ritardo. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In regia, per la parte tecnica, Roberto Cavallari e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Samantha Go. Grazie per averci seguito. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.